Ok, rieccoci qui. Allora, stiamo parlando della linea della vita, abbiamo sfatato un mito poco fa, perché praticamente si crede sempre che la lunghezza della linea della vita sia effettivamente la rappresentazione di quanto sia lunga la vita di una persona, mentre in realtà non è così, perché una linea un po' corta, un po' lunga, una linea che va ad affievolirsi non vuol dire che una persona morirà nell'età in cui più o meno si vanno a intersecare le linee con quella che è effettivamente la suddivisione in 7 anni, ma che effettivamente è indice di affievolimento, può essere indice di ripresa lenta, quindi diciamo che è un attimino uno sfatare il mito. Leggendo la linea della vita dal suo inizio, al suo normale punto terminale o oltre, se si presenta ben formata e di lunghezza normale, caratterizzerà una persona con un vigore naturale già presente nell'infanzia e fanciullesca, e che verrà conservato per tutta la vita. Voi state osservando il vostro palmo mentre sto leggendo, mentre sto trattando questo argomento? Io diciamo che mentre leggevo un attimo il manuale, più volte mi soffermavo a guardare effettivamente la caratteristica del mio palmo, non che io sia riuscita a farne una lettura molto chiara, molto esaustiva, ma più che altro per curiosità, per una curiosità. Molto spesso la linea rappresenta delle frastagliature o un'alta formazione a catena per il tratto che rappresenta i primi 10 anni di vita. Se voi riscontrate questo nel palmo della mano è perché solitamente sono un segno di malattie contagiose e malanni che i bambini durante l'età infantile contraggono, tipo un morbillo, una varicella, gli orecchioni, sono simbolo appunto di questi, quindi niente di grave per ciò che leggete. Quando la linea è ampia, invece, è indice di irritabilità o tensione nervosa, soprattutto sotto stress. Quindi la linea della vita ci dice anche una nostra caratteristica comportamentale. E la linea della vita, tra le altre, indica come una persona applicherà il proprio vigore naturale nel proprio modo di vita, quindi il modo in cui impiega le sue energie all'interno della sua vita. Quando la linea della vita parte alta sul monte di Giove è indice di un desiderio di dominio che spesso equivale addirittura ad un'indole tirannica. Invece, se la linea della vita si unisce nella parte iniziale alla linea della testa, rivela una tendenza conservativa. Quando la linea della vita si direziona verso il monte della luna, terminando proprio in quella zona, indica che la persona viaggerà lontano dal suo luogo di nascita, probabilmente senza farvi ritorno. Ciò potrebbe accadere contro ogni desiderio, ma se il monte della luna fosse molto sviluppato, ciò sarà in armonia con una naturale passione per il viaggio. Questo è ciò che trasmette la linea della vita. La linea della testa, invece, la linea della testa rappresenta il grado di intelligenza di una persona e il modo in cui questa riesce ad applicarla all'interno della sua vita. Quindi anche una capacità di ragionamento e una capacità intellettiva e soprattutto di concentrazione che ha la persona. Questa linea è molto importante perché appunto denota il modo in cui la persona applica la propria intelligenza, il modo di agire nella sua vita. Una linea frastagliata rivela che la mente può essere distratta da questioni meno importanti e quando presenta una formazione a catena spesso manca di continuità e di proposito. Quando la linea diventa sinuosa o debole, rivela che la mente può essere facilmente fuorviata, spesso per incapacità di concentrazione. Variazioni di colore, anche questa volta, come vi dicevo prima, o ampiezza sono indice di incostante applicazione dell'intelligenza. La linea della testa rivelerà la forza quando leggermente rossastra, ma se molto rossa sarà indice di qualità ingovernabili che hanno il loro affetto sui periodi temporali, come illustrato per la linea della testa. Prudenza naturale e buonsenso sono presenti quando la linea della testa inizia normalmente con la linea della vita. Quando questa unione continua è indice di timidezza che risale all'infanzia e può significare che la persona ha subito un rallentamento nel suo processo di apprendimento. Se inizia al di sopra della linea della vita, la linea della testa rivela un'indole sprezzante che aumenta proporzionalmente alla separazione. Talvolta la linea della testa inizia proprio nel centro del monte di Giove e curva verso il basso seguendo il suo naturale corso. Ciò è indice di presunzione, quale fattore principale in tutti i processi mentali, e più lunga è la vita, maggiore sarà la presunzione. Partendo da un altro punto che non sia il monte di Giove o con diramazioni che provengono da quell'area, la linea indica che una persona mentalmente ambiziosa.